Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero, come sapete, per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. Nell'ultimo rapporto relativo a una grande città, Milano, la Caritas ha dedicato loro un intero capitolo, li ha definiti gli equilibristi. Sono persone, in gran parte uomini, che hanno un buono stipendio, un lavoro, magari guadagnano anche più di 2.000 euro al mese, ma danno difficoltà, devono affrontare difficoltà economiche. Perché devono affrontare o stanno affrontando una separazione, a volte con figli. Dopo la separazione, una persona su quattro si trova in condizioni di basso reddito. Addirittura, pensate, secondo alcune stime, la disoccupazione, questo mi ha colpito molto, la disoccupazione comporterebbe un rischio inferiore di trovarsi in situazioni di disagio economico rispetto alla separazione, alla fine di un matrimonio. Il primo problema ovviamente è la casa, che nel 58% dei casi viene assegnata al momento della separazione alla moglie. Quindi l'assegno di mantenimento, che deve essere versato nel 94,5% dei casi, dunque quasi sempre, dai padri. Una media che sfiora i 500 euro al mese. E ovviamente se ci si trova senza casa bisognerà prendere un'altra casa, c'è l'affitto, c'è il mutuo se si vuole prendere un'altra casa. Insomma, sempre la Caritas se n'è accorta da tempo. Nei dormitori pubblici, nelle mense, è comparsa una nuova categoria di individui che, in controllo di giorno, non si direbbe davvero che possono avere problemi, difficoltà economiche, ma che in realtà faticano. Poveri padri separati, qualcuno ha titolato di recente, una nuova categoria di indigenti con cui fare i conti? Oppure qualcuno dice c'è anche un po' del vittimismo in tutto questo? Ne vogliamo parlare oggi? Saluto l'avvocato matrimonialista Laura Oesch. Buongiorno avvocato, benvenuta. Così come voglio salutare Alessio Cardinale, che è il portavoce nazionale dell'associazione Papà Separati Onlus. Benvenuto, buongiorno Cardinale. Buongiorno. E un saluto anche ad Alessio Saso, che è un consigliere regionale della Liguria dell'Alleanza Nazionale, perché in Liguria è stata promulgata una legge regionale davvero particolare, la prima di questo genere. Benvenuto Saso, buongiorno, ci spiegherà ovviamente di cosa si tratta. Allora, padri separati, è questa la nuova frontiera di povertà, nuova categoria di indigenti con cui fare i conti? Alle 9 e 11 minuti, poveri padri separati, titolava di recente Repubblica, e mariti separati, nuovi poveri, titolava Libero. I papà sono sempre penalizzati nelle separazioni, ma è davvero così? Repubblica, tra l'altro, un elemento sempre che mi ha colpito molto, raccontava la storia di un padre ovviamente separato, 2.500 euro di stipendio al mese, 2.500 euro, non poco. Ebbene, dice, avevamo comprato un appartamento insieme a mia moglie e il mutuo si prende 800 euro al mese. 600 euro è la cifra che passo per il mantenimento dei bambini. Con 1.100 euro dovrei pagare l'affitto di un nuovo alloggio in una grande città con due stanze, eccetera. Per vivere mi restano 400 euro. Alessio Cardinale, è una nuova realtà con cui fare i conti o c'è del vittimismo? I poveri padri separati? Di sicuro è una realtà, è un dato di fatto ed è sotto gli occhi di tutti. Il vittimismo di cui parla qualcuno, probabilmente spinto da altri tipi di interessi professionali, non è vittimismo, è un dato di realtà. Aggiungo che non ci sono soltanto i papà poveri. La nuova frontiera di cui lei parlava, la nuova frontiera della povertà, implica che ci sia anche un impoverimento di tutta la famiglia nella separazione. L'associazione Papà Separati, che si è accorpata di recente ad Adiantum, che è una grandissima associazione di associazioni che accomuna, raggruppa uomini e donne separate, ha deciso di non cavalcare assolutamente lo scontro di genere nella separazione, perché fa soltanto male ai figli, ai bambini. Nell'intento di tutelare i bambini, vogliamo tutelare anche i genitori, soprattutto alla luce di questa nuova frontiera della povertà. Siamo tutti nella stessa barca, uomini e donne. Gli uomini perché sono costretti a vivere nei dormitori, non tutti ovviamente, una grande percentuale ospite della Caritas, le donne grande, che pur... dice una grande percentuale addirittura, cioè mi dica, voglio dire, voi raccogliete tante storie, guardi, cioè è davvero così aumentata questa, guardi, questa c'è percentuale? Un aumento esponenziale dovuto al fatto che le condizioni economiche oggi che tutti conosciamo sono di particolare crisi. Molti padri che avevano un lavoro per esempio precario, ma così anche tante mamme, stanno perdendo via via il lavoro. Si parla oggi di statistiche riguardo al lavoro precario cosiddetto, in cui si prevede una perdita di circa 400.000 posti di lavoro entro la fine dell'anno. Ebbene, noi possiamo dire senza tema di smentita che questa perdita c'è già, è già in atto ed è già arrivata al suo culmine, non è prevista. Tante persone stanno perdendo il lavoro, uomini e donne, papà e mamme, per esempio nei call center, perché non vengono rinnovate le commesse da parte delle grandi compagnie telefoniche, tante famiglie vanno in crisi, il mutuo da pagare c'è. E quindi laddove c'è una separazione dei costi, lei dice esatto, questo... Quello che vorrei precisare... Sì. Per informazione di tutti gli ascoltatori, è che alimentando lo scontro di genere, quando invece il problema è comune, e ora spiegherò il perché, non si risolve nulla. Uomini e donne sono nella stessa barca. Si fermi qui, Cardinale, no, poi ce lo spiega, tanto abbiamo tutta un'ora sul conflitto di genere. Voglio dire, vorrei coinvolgere anche l'avvocato Laura Oesch, avvocato matrimonialista. Senta, avvocato, io ho detto che il primo problema in genere è la casa, nel senso che poi la casa è quella che anche probabilmente comporta i costi maggiori, però mi dica se sbaglio o è forse l'assegno di mantenimento per i figli. Ci aiuti un po' a capire e dare anche qualche dato dall'altro della sua esperienza, a capire se davvero c'è questa nuova frontiera con cui fare i conti. Allora, dal punto di vista della frontiera, mi sembra che il discorso di mettere in comune le donne e gli uomini, quindi le mamme e i papà, sia un discorso giusto, perché in realtà il problema della separazione è un problema che riguarda l'intera famiglia e impoverisce tutti. Quindi ci sono i papà che diventano poveri e le mamme che magari vivono in quella famosa casa che crea effettivamente molti problemi molto spesso, le mamme vivono ma vivono male in questa dimensione. Quindi l'impoverimento è generale della famiglia ed è anche un discorso, come ha fatto chi mi ha preceduta prima, è un discorso legato anche al mercato del lavoro. Quindi la situazione è effettivamente molto, molto precaria e la separazione la aggrava. Però devo dire che la separazione ha purtroppo una caratteristica che non è tanto economica quanto relazionale. La litigiosità. Ecco. E quella litigiosità sposta tutti gli obiettivi, perché per esempio a me è capitato di leggere sul giornale un caso e di conoscerlo questo caso e di leggere sul giornale le dichiarazioni di questo papà che corrispondono a una parte della verità, però è stata taciuta l'altra parte e per esempio il patrimonio che questo papà ha e perché fa delle scelte di dormire nei dormitori o in macchina piuttosto che dormire in una casa. Allora io voglio dire questo. Il discorso economicamente è un discorso effettivamente tragico, laddove i redditi sono molto bassi. Però devo anche dire che la conflittualità aggrava moltissimo questa situazione e che se i due coniugi che hanno gestito la famiglia prima, magari in un regime di chiarezza, gestissero anche la separazione nello stesso regime di chiarezza, quella povertà verrebbe condivisa. Lei dice insomma che c'è proprio un concreto aumento di costi legato alla litigiosità, proprio anche questo fa anche aumentare già quei costi che ci sono inevitabilmente nella separazione. Un aumento grosso, perché per esempio le spese legali della litigiosità sono enormi, certo. Si potrebbero evitare. Allora, detto che ci sono diverse parti d'Italia e ne parleremo, poi parleremo di quello che sta succedendo a Bolzano anche nella seconda parte parte della trasmissione. Ci segnalano che anche a Milano, insomma, il comune si sta attivando. Ci sono diversi comuni che si stanno attivando per fare che cosa? Per cercare di venire incontro a questa situazione, che è un dato di fatto magari che rimane un po' sotto traccia, cioè dell'aumento della povertà tra i coniugi che si separano, o della povertà legata alle separazioni. E quindi, non so, stanno nascendo anche case d'incontro, per esempio, laddove i genitori che si trovano separati non hanno una casa loro, hanno una casa magari che non permette degli incontri con i figli, si possono incontrare. Per esempio, il comune di Milano lo sta facendo da questo punto di vista. Nella regione Liguria si è fatto un qualcosa di più, è la prima regione in cui c'è una legge del genere. Il primo firmatario è il consigliere di AN Alessio Saso, che è qui con noi. Allora, sapete che la Liguria è una regione di centrosinistra, però la sua legge, la chiamo così, Saso, di Alleanza Nazionale, credo che abbia avuto l'unanimità dei voti del Consiglio regionale, è così? Esattamente così, e questo è un dato che va giustamente sottolineato, perché insomma è raro che una legge che parte da un esponente di minoranza diventi appunto legge. Diventi legge e poi all'unanimità, insomma. All'unanimità, quindi allora, questo è un dato politico molto significativo. Questa legge, che è la prima delle regioni italiane in Liguria, è una legge che vuole aiutare i genitori separati in situazioni di difficoltà, sostanzialmente. Come? Esattamente, allora è partita un anno e mezzo fa come una legge a sostegno dei padri separati in condizioni di difficoltà, proprio perché avevo constatato sia dai dati statistici che così da tanta sofferenza che in qualche modo incontravo anche così nella vita quotidiana, che eravamo in presenza di una categoria che aveva qualche difficoltà in più. Innanzitutto la prima difficoltà è quella che quando ci sono dei figli, quasi nel 90% dei casi la casa coniugale viene assegnata appunto alla madre con cui i figli continuano a vivere. Quindi una prima grossa difficoltà è che si deve lasciare la casa coniugale, quindi in qualche modo trovarne un'altra. Se non si ha il sostegno della famiglia di provenienza, questa è già una difficoltà di non poco conto. E poi la media degli stipendi dei padri separati è intorno ai 1.200 euro, 1.300 euro. Se si tolgono circa 400 euro medi di assegno familiare, è chiaro che a quel punto, di assegno di mantenimento, a quel punto si entra veramente in una soglia molto vicina a quella della povertà. Cioè, io ho fatto l'esempio iniziale di 2.500 euro questa storia, questa è il doppio di quello. Esatto, pensate della media. Pensate che guadagna 1.200-1.300 euro e si trova di fronte a una separazione. E la cosa grave che va sottolineata, come è stato anche poco fa detto, è che poi il danno ricade su tutta la famiglia in genere, perché è chiaro che anche un padre che in qualche modo si trova in condizioni di grandi difficoltà finisce anche involontariamente alle volte per abdicare al proprio ruolo di genitore, quindi anche la madre finisce alle volte per dover allevare i figli in una condizione di solitudine che fa male a tutti, ai figli e alla moglie e naturalmente anche al padre. Allora, partendo da questa constatazione, che è una constatazione di fatto, proposi questa legge che sostanzialmente è rimasta la stessa fino all'approvazione. L'unica cosa è che si è cambiato il titolo, cioè invece di dire padri separati in condizioni di difficoltà abbiamo messo genitori separati. È un bene, però no? I meccanismi continuano a andare a sostegno di colui che lascia la casa, certo, coniugale. È meglio così, però, Saso, cioè è meglio questa dicitura, sì, no? Genitori separati. Poi credo che sia meglio anche perché evita appunto che si finisca per cadere in queste in quel conflitto, in questo caso lotte di genere, esatto, che non servono veramente a niente, perché è un problema effettivamente comune, non è un problema solo di una parte. Allora, in concreto, un padre o una madre separata che dovesse abbandonare la casa, per esempio, cosa può fare in Liguria? Ha diritto ad accedere in maniera agevolata? A che cosa? Tre forme di sostegno. Il primo è quello sulla casa, quindi anche la possibilità di accedere a case di cui può disporre in via temporanea in attesa di trovare una sistemazione più stabile. Ha un percorso privilegiato per accedere alle case di edilizia popolare, e quindi il primo intervento concreto è quello di ridargli una possibilità concreta appunto di avere un'abitazione nella quale anche ospitare i figli nel momento in cui appunto è il periodo che la legge prevede stiano con lui. Secondo sostegno, un sostegno di carattere giuridico, sono previsti dei centri di assistenza e mediazione familiare, almeno uno per ogni ASL, in cui praticamente si cerca proprio di fare da camera di compensazione, in qualche modo di riequilibrio di quei conflitti giuridici a cui appunto molto spesso che fanno aumentare i costi cadere. Poi esatto, aumentano i costi, ed è previsto anche, cosa non di poco conto, un sostegno di carattere psicologico, perché io e anche in questo senso degli studi lo comprovano, il disagio psicologico maschile alle volte tende ad emergere con qualche difficoltà in più, no? L'uomo magari anche così per ragioni di carattere culturale ha una difficoltà maggiore a dire sto male, ho bisogno anche di un sostegno psicologico che mi faccia uscire da questa situazione, e dove la separazione terzo, fisica, certo, dai figli comunque ha un suo peso. Terzo elemento, anche un sostegno proprio di carattere economico diretto, nel momento in cui i redditi non sono tali da garantire una vita dignitosa, sono previsti anche dei sostegni economici proprio in termini monetari. Allora, io voglio tornare dall'avvocato Oesch e da Alessio Cardinale. Prima però due ascoltatori, che insomma il tema come al solito è molto sentito, perché è un tema poi che tocca moltissime persone. Mi pare che solo i padri separati siano circa 200.000 in Italia. 800 24 00 24 per intervenire. Giovanni da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Di che? Io volevo intervenire per esporre il mio caso, che è comune a tanti altri che li conosco. Cioè, io prendo 1.500 euro al mese di stipendio, a cui devo togliere 600 euro di mutuo, 400 per gli alimenti, e arrivo a 900. Poi mio figlio abita in un'altra città con la madre, e io tutte le settimane per vederlo spendo almeno 50 euro tra spese e macchina per raggiungere mio figlio. Ma sto facendo i conti, scusi, quanto le rimane? Per ora ne rimangono 450 euro. Ecco, comunque alla fine mi rimangono 200 euro per vivere. Io ho rinunciato a vestirmi perché uso un paio di scarpe tutto l'anno. Oramai sono 7 anni che faccio questa vita. Non so più cosa fare. Però che cosa succede? Che il comune dove abito, io pago la TARSU come una persona che, perché io ho sta casa, pago il mutuo, pago la TARSU come una persona normale, le tasse le pago come, cioè, la macchina che a me serve per raggiungere il posto di lavoro, e per pago le tasse. Beh, che scusi, che vuol dire con una persona normale? Cioè, le vorrebbe degli sgravi fiscali in quanto padre separato? Allora, è una nuova frontiera questa. Ma io vorrei capire una cosa, come fa una persona con 1.500 euro al mese a mantenere gli impegni con lo Stato, con la famiglia, è impossibile. Cioè, una persona separata è impossibile. No, ma è interessante la sua storia, Giovanni. Poi vado da Massimiliano. Prima vorrei, avvocato Oesch, il problema che ci pone Giovanni, addirittura dice ci vorrebbero degli sgravi fiscali. Io perché ho detto all'inizio i furbi? Perché tra l'altro proprio da Genova, lei ne ha già citato un caso pratico, ma a Genova è nata, pensate, nella procura di Genova, una task force coordinata dal PM Vincenzo Calia per incastrare gli ex coniugi che si fingono in miseria, molti ovviamente padri, almeno 200 fascicoli all'anno, quindi per dire che esiste anche questo fenomeno, sarà magari ridotto rispetto a quelli che dicono invece non abbiamo i soldi e davvero non li hanno, però questo fenomeno c'è. Avvocato, che ne pensa di questo fenomeno e di Giovanni che dice io come faccio, ci vorrebbero gli sgravi fiscali? Allora, diciamo che il fenomeno esiste ed è un fenomeno che appartiene alla nostra cultura, che è quella dell'evasione fiscale. E questo problema dell'evasione fiscale nella famiglia si trasferisce nel conflitto fra le persone. Quindi cosa succede in questo conflitto? Succede una cosa orribile che però abbiamo cercato sempre di combattere, e anche tutte queste leggi che escono e che vengono promulgate sono anche orientate, chiedo scusa ma sono un po' raffreddata, a dirimere questo conflitto. I figli diventano l'oggetto della lite, diventano un vero e proprio ostaggio delle madri, che in qualche modo, anche inconsapevolmente, li fanno diventare un elemento di contrattuale per avere denaro, e quindi lesinano le visite, gli incontri, eccetera, e i padri che per non dare denaro usano i figli nel verso opposto e nascondono il proprio denaro e pretendono litigiosamente di vedere questi bambini. I bambini non c'entrano niente, perché le coppie, soprattutto le coppie più giovani che hanno una cultura diversa anche delle relazioni matrimoniali, molto spesso questo problema non ce l'hanno, e quando non ce l'hanno il problema della separazione lo affrontano non dico con serenità, perché se sono poveri sono poveri, ma in una situazione di chiarezza. Nella situazione di chiarezza, per arrivare al discorso della casa, la casa diventa un elemento, diciamo, di spartizione delle responsabilità. Allora, la mamma, che se vive coi bambini, non si arrocca sulla questa pretesa di avere la casa, espropriando il papà della casa, del denaro e mandandolo nel dormitorio, ma si pone il problema. Spesso si fanno aiutare dalle famiglie d'origine a rilevare la quota dell'altro per permettere all'altro di non dover pagare il mutuo per far stare il bambino. Insomma, ma pagare il mutuo per la propria casa. Il tema, come vede, è molto controverso. Tra l'altro, la 7, sentiamo un attimo. Attualmente con l'Istat sta parlando un padre separato. Sulla 7 di cosa stanno parlando? È una coincidenza, oltre ovviamente. Ve lo faccio sentire nel programma Voi Milano. Papà separati, ecco i nuovi poveri. Allora, andiamo un attimo in pubblicità, poi recupero Massimiliano da Milano. Voglio ripartire da Alessio Cardinale, che insomma ci doveva spiegare questo conflitto di genere, perché questo conflitto di genere, su cui spesso si impostano le separazioni, è davvero un errore. Parliamo di genitori separati, o qualcuno dice soprattutto i nuovi poveri, soprattutto i padri separati, perché statistiche alla mano sono soprattutto loro che devono affrontare i costi della separazione. I padri separati è la nuova frontiera del rischio di povertà, oppure c'è esagerazione? Molto spesso si nasconde dietro a questo anche storie di furbizia, di insomma di non far vedere di guadagnare per non pagare per esempio l'assegno di mantenimento. Allora, ci ha raggiunto, intanto lo saluto, Elio Cirimbelli, che è responsabile del centro assistenza separati divorziati di Bolzano. Buongiorno Cirimbelli. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Andiamo dall'ascoltatore che era lì da un po', Massimiliano, ecco, mi scuso, da Milano. Buongiorno Massimiliano, dica. Buongiorno dottor Milan, e grazie per la possibilità. Volevo portare la mia esperienza, anche perché riguarda un'esperienza di un imprenditore. Allora, io sono separato da circa 4 anni e mi do un emolumento di circa 3.500 euro al mese, che potrebbero sembrare molti, soprattutto sui numeri di oggi. Col fatto che questa separazione non è stata da me cercata, io mi sono trovato, seguendo anche quello che diceva l'avvocato, mi ha trovato totalmente d'accordo, in una situazione in cui non volevo assolutamente creare una situazione conflittuale, proprio per non fare del male alla bambina che è quindi coinvolta in questa separazione. Quindi non ho cercato di mascherarmi in alcun modo, anzi, sembrerà anche stupida la cosa, ma ho cercato di dare anche più di quello che mi era stato chiesto dall'avvocato della controparte. Quindi nello specifico un assegno di 2.000 euro per mia moglie, di 1.000 euro per mia figlia. Beh, accidenti. Più l'affitto che è a carico mio, più l'automobile, tutto quello che manteneva il tenore precedente. Se le fai i conti brevemente... Beh, 2.000 più 1.000, esatto, supera i 3.500. Supera i 3.500. Come mi era consentito di pagarli, semplicemente perché negli anni fortunatamente ho lavorato bene, avevo dei risparmi che ho utilizzato senza alcun problema per pagare questo, fino a quando ho esaurito completamente i miei risparmi. Allora, cosa è successo? Che adesso sono arrivato da pochi giorni al divorzio, si sono ridotte queste condizioni, rimanendo comunque pesanti. La difficoltà sta del fatto che comunque mi è obbligatorio, e in ogni caso, ogni mattina svegliarmi e cercare di lavorare al mio meglio per riuscire a pagare queste cose. Sinceramente non ho nulla contro il fatto in sé, ma ritengo che ci siano delle regole che in questo momento danno un po' troppo alle donne che decidono di separarsi e mettono tante persone, perché io ho tanti amici nella mia stessa lei dice c'è uno squilibrio. No, la ringrazio Massimiliano, per insomma, poi sono molti quelli che ci chiamano raccontandoci il proprio caso personale. Alessio Cardinale, voglio tornare da lei. Allora, perché è sbagliato porre una conflittualità di genere, visto che la litigiosità, ci ha detto l'avvocato Esce, è quella che spesso fa anche aumentare le spese, soprattutto dal punto di vista delle spese d'avvocato, per esempio. L'avvocatessa ha assolutamente ragione, i costi legali della conflittualità sono elevatissimi, spesso costituiscono la voce principale del dissesto finanziario di una coppia in separazione, ma gli avvocati fanno il loro lavoro, non tutti gli avvocati fanno il gratuito patrocinio e comunque gli avvocati si alzano la mattina per andare a lavorare, non possono certamente lavorare gratis, quindi hanno tutta la nostra comprensione. Il problema sta al monte di tutto, non è colpa degli avvocati, non è colpa, diciamo, dei genitori. Certo, ci sono i casi limite, i genitori che nascondono il patrimonio, tipicamente i padri, i genitori che nascondono i bambini, tipicamente le madri. Tutto questo però, se dovessimo parlare di questo, non ne usciremmo più. La realtà in Italia è fatta di coppie che tentano di mantenere l'equilibrio dopo la separazione e regolarmente, soprattutto per il ceto medio, non ci riescono. Quindi possiamo dire, a nostro avviso, che l'attuale situazione, questa nuova frontiera di povertà di uomini e donne separate, è assolutamente figlia di un sistema che da un lato incoraggia alla separazione, perché oggi ci si separa quasi, diciamo, con facilità, non si riflette, e là potremmo entrare in un altro ginepraio di discorsi di natura morale, valori di vita, eccetera, eccetera, dai quali probabilmente non usciremmo, ci vorrebbe forse una puntata. Sì, ad hoc altro che per una. Dall'altro non garantisce questo sistema alcun equilibrio alla coppia in separazione, e quindi siamo tutti nella stessa barca. Faccio un esempio concreto, mi riallaccio al problema che ha delineato il signor Giovanni, mi sembra, il primo papà che è intervenuto. Sì, da Napoli. Sì, Giovanni da Napoli. Il caso del signor Giovanni è il classico caso che descrive questo squilibrio. Basterebbe che i giudici cominciassero ad applicare un affidamento paritetico, laddove possibile ovviamente dal punto di vista pratico, e applicare il dettato della legge 54 del 2006, la legge sul cosiddetto affido condiviso, laddove il testo della stessa legge recita che l'assegno di mantenimento è da corrispondere ove necessario. Ora, che succede? Se il signor Giovanni avesse un affidamento paritetico o comunque quasi paritetico, si potrebbe applicare semplicemente ciò che la legge prevede e salterebbero 400 euro al mese, perché sì, a questo punto signor Giovanni potrebbe evitare, mantenendo direttamente i bambini, questo assegno, avere delle condizioni di vita più dignitose, anche se 400 euro. Però mi sembra euro che, venga applicato, tanto. Mi sembra che venga applicato sempre di più, almeno no, questo l'affido condiviso. L'assegno è una norma, è una prassi che risale alla giurisprudenza precedente e non certo a quella nuova. Certo. E non viene, cioè l'assegno viene applicato comunque, quindi i magistrati ignorano, hanno assolutamente ignorato questa norma, così come la magistratura oggi aggira, a nostro avviso, la norma sull'affido condiviso, perché non rispetta il dettato intimo del legislatore, perché di fatto è cambiato solo il nome, da affidamento, da coniuge affidatario si è passati al coniuge collocatario, di fatto i bambini rimangono così. Allora, io ci sono anche tanti ascoltatori, voglio andare per un attimo a Bolzano da Elio Cirimbelli, era notizia, no, di quest'estate, nasce il primo condominio fatto per uomini divorziati, questo era un titolo ovviamente esemplificativo, come tutti i titoli un po' imprecisi, come diciamo in Liguria abbiamo detto c'è ora la prima legge regionale che assiste, aiuta concretamente i coniugi separati, a Bolzano che cosa è stato fatto, Cirimbelli? Cioè ci sono state date le possibilità di avere una casa a chi si trova in difficoltà per una separazione, così? Ma diciamo che dal 2004 esiste a Bolzano una casa accoglienza per genitori separati, nello specifico padri separati, è una micro comunità dove alcuni padri convivono tra di loro, non hanno solo un tetto sotto il quale ripararsi, ma hanno soprattutto un luogo decoroso nel quale stare con i propri figli quando appunto li hanno a fine settimana o durante la settimana. Io ho sentito delle cose che non condivido, non ho capito chi mi ha preceduto parlando di affido condiviso. Alessio Cardinale è il portavoce dell'Associazione Nazionale dell'Associazione Papà Separati. Ecco, no? Lo saluto. Ecco, io in parte condivido quello che dice, in parte mi trovo in disaccordo, perché io da sempre ho sostenuto che l'impianto dell'affido condiviso va benissimo, no? Perché praticamente si dice che i figli hanno sacrosanto diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i propri genitori, con entrambi i genitori, e lì mi sta bene. Però alla fine questa è stata una legge con una gestazione lunghissima, un parto troppo veloce, e alla fine ci troviamo con un brutto ritocco, sì, dell'affido congiunto che esisteva già. Ecco, io però vorrei invitare tutti gli operatori, io per primo, noi dobbiamo batterci affinché si interrompa quel meccanismo perverso per cui quando ci si separa deve esserci uno che vince e l'altro che perde, e qui gli avvocati a volte non ci aiutano. Se noi rompiamo questo muro, forse riusciamo a far sì che le coppie iniziano a si separino con responsabilità e che mantengono la possibilità di una responsabilità genitoriale. E questo è l'obiettivo massimo. Tra poco le chiederò come sta andando, insomma, questo esperimento a Bolzano. Prima vorrei un ascoltatore prima del traffico. Massimo dalla provincia di Roma, buongiorno. Massimo? Sì, si sente? Benissimo. Sì, sono Vincenzo dalla provincia di Roma. Ah, perfetto, scusi, mi hanno scritto. No, Vincenzo, dica. Allora, la mia esperienza è un po' come tutte quelle dei padri separati, però io volevo mettere l'accento sul fatto che quando ci si separa la situazione è completamente diversa da quella delle madri, perché le madri sostanzialmente rimangono nello stesso equilibrio quotidiano con i figli, li portano a letto, li vanno a mangiare, questo perché ha dei figli, una famiglia è una cosa che dà molta energia, molta forza veramente per andare avanti. Il fatto che un padre separato poi si cambia completamente, esce fuori da casa e quindi si trova in una situazione completamente solo e difficilmente, cioè senza quella carica, quell'energia, è chiaro che molte cose non riesce più a farle, eccetera, eccetera. Io ho finito l'esperienza di un mio carissimo amico, una persona buonissima, la maggior parte, anche lì, il discorso che mi diceva prima, dei 200 casi dei furbetti del quartierino, sono 200 su 200.000, quindi... No. Ma adesso, no, sono, come sa, poi adesso a Genova è nata questa task force in procura, sono 200 all'anno, poi come sa, insomma, 200 vengono aperti, chissà se vengono scoperti tutti, ma io ripeto, non voglio stare né da una parte né dall'altra, però bisogna un po' rappresentare la realtà per com'è, con tutte le sfaccettature. Allora a Genova c'è nella procura questa task force a caccia dei furbi degli alimenti, insomma, come vengono definiti, che vengono scoperti un 200 all'anno non vuol dire che sono 200, magari neanche tutti i fascicoli corrispondono poi a condanne, però magari ce ne sono molti di più che la fanno franca, come lei mi insegna. Comunque la ringrazio per la sua testimonianza, Vincenza. Un'ascoltatrice, oh, finalmente parla una donna tra tanti uomini che ci chiamano. Gabriella da Novara, buongiorno. Buongiorno, dica. Avrei tante cose da dire. E purtroppo a me non mi fanno pena per niente questi poveri mariti, sa? Assolutamente. Guardi, io sono 10 anni che sono separata, con 2 figli. Quando mio marito è andato via, io sono rimasta lì con 20.000, ripeto, 20.000 lire in tasca, non ho mai percepito un centesimo. Nella casa è vero che ci sono rimasta io, no? Però mio marito, io non ho mai fatto causa per il mantenimento dei figli, perché ho detto alla fine faremo i conti, metà casa sua, metà mia, faremo i conti che acquisto la casa, no? Invece mio marito ha fatto dei debiti sulla casa, me ne sono accorta quando si è presentato l'ufficiale giudiziario. Per il pignoramento, esatto, certo, esatto. Perché la casa era intestata al marito, era quindi di fatto. No, era intestata a tutti e due. Ah, era intestata a tutti e due. A tutti e due. Cosa vuol fare? Mi sono rimboccata le maniche senza andare a piangere da destra e manca, no? E adesso siamo qua che sto pagando anche i debiti di mio marito. No, io la ringrazio Gabriella, insomma le storie personali, ovviamente ognuna è diversa, è difficile poi calibrare tra storie personali, ognuno ha la propria con diversi aspetti, insomma la signora Gabriella ha una storia evidentemente che ci ha raccontato, seppur in sintesi è molto emblematica, poi dalle storie personali staccarsi, insomma, e parlare di un problema, se c'è un problema generale, ovviamente è un passo diverso. Io vorrei tornare per un attimo ad Alessio Sasso, voglio ricordare, consigliere di AN, il primo firmatario di quella legge regionale che in Liguria hanno approvato all'unanimità, che aiuta i coniugi separati. Ha capito Sasso che forse è stato davvero bene cambiare da padri separati a coniugi separati, perché quelle litigiosità di genere di cui si parla tanto, insomma, sembra mettiamole da parte, ma insomma è inutile, è innegabile che poi ci sono. Forse è stato meglio proprio chiamarla così. Poi magari saranno più i padri che ne usufruiranno, questo non lo so. Sì, per come congeniata ne usufruiranno molto di più i padri, però sicuramente ha attenuato alcune resistenze nei confronti della legge, che peraltro erano emerse anche durante le audizioni in regione, nel senso che gli operatori sociali della regione Liguria erano quelli, se vogliamo, meno favorevoli culturalmente all'introduzione di una legge di questo tipo. Era un po' come se avessero dovuto cambiare l'impostazione che avevano avuto fino a quel momento, di vedere quasi sempre totalmente solo vittima la madre. Ecco, in questo senso avevamo registrato non poche resistenze, quindi aver cambiato il titolo, averlo reso sicuramente più neutro, in questo senso senz'altro aiuta, però va rilevato che comunque questa resistenza da parte degli operatori sociali, prevalentemente proprio in termini numerici appartenenti al genere femminile, è una resistenza di cui bisogna tener conto. L'idea del padre vittima comunque era poco accettata. Un'ultima cosa che vorrei dire, sì, è che io ho presentato questa legge anche alle Camere, perché naturalmente il problema non è un problema della regione Liguria, ma è un problema nazionale. Certo. E quindi credo e se auspico che poi insomma un gruppo parlamentare la faccia propria con le dovute modifiche per dare una cornice nazionale, anche perché credo che l'innegabile fragilità che mostrano molti giovani appartenenti appunto alle nuove generazioni, questa fragilità proprio nell'affrontare la vita, sia in qualche modo anche legata a questo, come dire, a questa non scomparsa ma comunque diminuzione di rilevanza del ruolo paterno. Ecco, c'è una fragilità che deriva anche secondo me da questo fatto, da una figura paterna che ha sempre meno rilevanza nella vita familiare dei nostri giovani. Allora, se avrà un iter parlamentare, insomma, noi lo seguiremo. Intanto andiamo da Massimo, questa volta sì, dalla provincia di Roma. Massimo, pronto? No, Massimo, oggi con Massimo da Roma o dalla provincia di Roma. Ecco, mi sente Massimo? Sì. Eccoci qua, perfetto. Allora c'è, è vero, prima avevo chiamata da Roma, era Vincenzo, invece è Massimo dalla provincia di Roma. Dica Massimo. Dunque, no, io volevo dire soltanto questo, che mia figlia, io ho 73 anni, vedovo, mia figlia è stata cacciata dal marito nel 2006, hanno fatto la separazione così, nel 2007 praticamente il giudice ha condannato il marito a pagare con affido congiunto, che ha due figli piccoli, a pagare 450 euro al mese, ma questo non gliel'ha dati per mesi e mesi. E adesso praticamente è un anno circa che gli dà questi soldi, però ora così saltuariamente, e ora siccome gli hanno tolto gli assegni familiari, in quanto mia figlia ha praticamente levato lui dalla famiglia al comune di Anzio, e questo signore adesso non vuole dare più i soldi e non c'è verso di fargli ridare. Io praticamente mi sono trovato a carico mia figlia e i due nipoti, e io ho una pensione di 1165 euro al mese. Quindi tocca, va a intaccare la sua pensione, insomma, fa di necessità virtù. Io sto facendo una vita grama, ho la fortuna di aver fatto nel tempo, anche mio padre mi ha aiutato, ho una casa, e con questa casa praticamente certo, sì, che hanno la maggioranza delle persone dell'affitto, però c'ho l'ICI, no, da pagare tutte le tasse relative. Lei pensi soltanto questo, che adesso per esempio il mese di novembre con la ritenuta non mi hanno dato per nemmeno una lira di pensione, con la ritenuta per il 730 fatto per pagare le tasse. Insomma, questa, no, la sua Massimo mi interessa, insomma, è una storia, se vuole, ulteriore. Voglio dire, lei fa di necessità virtù, visto che sua figlia si trova in queste condizioni e l'ex marito non paga, e lei, insomma, come padre di sua figlia, dover mantenere la figlia e anche, insomma, i figli, insomma, i nipoti, è una frontiera ulteriore da esplorare, molto interessante. Io però qui mi fermo, perché il tempo per oggi è scaduto. Tra l'altro voglio ricordare che potrete trovare tutto sul sito radio24.it per riascoltare la puntata. Potete anche scriverci tutte le vostre storie, le vostre proposte. La mail la conoscete ormai, vivavoce@radio24.it. Non mi resta che ringraziare in redazione Alessandro Marcotulli ed Elisabetta Fusconi e Giorgio Matè in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo puntuali domattina. Viva Voce.